sempre un buon motivo per essere positivo e farti aprire in due. C'è sempre una ragione per farsi in quattro e diventare come chiacchiere da bar e tutto resta uguale. Ti pare il modo questo di darmi dei consigli e dirmi cosa pensi di me? Non è il modo giusto, mi parli e ti confidi. Io tanto resto in piedi per me, solo per me. Fanculo le 8 di mattina, che ti obbliga ad alzarti prima. Fanculo chi è restato a letto, fanculo tutti, io te l'ho detto. Sei tu che marchi stretto. C'è sempre un buon amico che è contro ciò che scrivo, ma non contro di me. C'è sempre un'eccezione ed io che mi faccio in quattro per dimostrare come anche per chi non conta niente ce n'è e anche per me. Fanculo le 8 di mattina, chi ti obbliga ad alzarti prima? Fanculo chi è restato a letto, fanculo tutti, io te l'ho detto. Sei tu che marchi stretto e non mi chiedere perché. Non riesco a starti dietro, ogni volta che sproloqui su chi sei io non ti seguo. Sei davanti a me, neanche mi vedi e non mi spiego come ste parole a vuoto facciano un effetto stereo. Professi magnanimità mentre calpesti piedi e mani. Alla fine ciò che offri è solo l'eco dei tuoi piani e le dottrine cristiane con cui fai prediche. Sai caro amico mio, questo è proprio per te, io te lo dedico.